Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Beh, oggi se fossi in voi alzerei il volume della radio. La storia che sto per raccontarvi è quella di un musicista straordinario, un ragazzo del Texas che negli anni '80 ha infiammato i palcoscenici di tutto il mondo con la sua chitarra, una Fender Stratocaster naturalmente. Era un chitarrista bianco, però aveva un'anima nera e questo lo ha reso uno dei maggiori esponenti del blues. È un uomo che non ha mai studiato musica, ha sempre suonato a orecchio, è un autodidatta. Insomma, oggi parliamo di Steve Ray Vaughan e lo facciamo anche grazie alla segnalazione di un ascoltatore, Giancarlo Beccari. Buongiorno Giancarlo. Ciao Enrico. Ciao Giancarlo. Ascolta, come mai ci hai segnalato Steve Ray Vaughan? Allora, perché da ragazzo, quando diciamo l'ho ascoltato la prima volta, mi ha colpito per il suo modo appunto di suonare. Poi ha uno stile, ha creato proprio uno stile suo. Infatti qualsiasi metodo di chitarra, c'è il metodo Steve Ray Vaughan. La pulizia con cui suona, con... La pulizia, è vero, questa è una delle cose che gli riconoscono tutti. Tu sei un chitarrista? Ma sì, diciamo che è strimpello. Ti piace il rock del sud? Sì. Grazie Giancarlo, buona puntata. Ciao. Steve Ray Vaughan nasce in Texas, a Dallas, il 3 ottobre del 54. Suo padre è un tecnico specializzato nell'uso dell'amianto, così per lui la vita è un continuo spostarsi da una città all'altra, portandosi dietro tutta la famiglia. Steve Ray vive la sua giovinezza vivendo in più di 30 città diverse, quindi è chiaro che un vagabondare del genere è impossibile farsi dell'amicizia. Questo serve a cementare il rapporto col fratello Jimmy, che ha 3 anni più di lui. Non era certo il modo più comodo per vivere, spostarsi da una città all'altra, frequentando una scuola per 2 settimane e poi facendone altre 3 in un'altra. Però era un allenamento formidabile per quel che avremmo fatto in seguito. Quando Jimmy ha 12 anni gli regalano una chitarra. Steve Ray lo osserva mentre impara gli accordi. Quando il fratello non c'è è lui che prova a suonare. In famiglia nessuno prende lezioni di musica, si ascoltano i dischi, si prova a imitare quelli che stanno suonando, i grandi del rock, che sono Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, peraltro tutti e tre ruotati in sfera Yardbirds. Ma Steve Ray è attratto da un genere musicale che forse è più vicino alla terra che sta girando in lungo e in largo con la famiglia. Una musica che nasce dal cuore, che esprime la sofferenza degli uomini per lungo tempo. Insomma, sto parlando naturalmente del blues. E così si ascoltano anche altri dischi: Albert King, Otis Redding, B.B. King. E in questi primi anni Steve Ray Vaughan cresce all'ombra di suo fratello Jimmy, il suo idolo. A 16 anni Jimmy ha già un gruppo, suonano nei locali della zona, però ci si comincia a accorgere che anche il bambino, il ragazzino Steve Ray, se la cava bene con la chitarra, che anche lui mette su un gruppo rock, passa i pomeriggi nella sua stanza a perfezionare la tecnica suonando gli assoli sui dischi di Jeff Beck. È diventato più grande, comincia a alternare gli studi scolastici con i provini per i gruppi. Comincia a impressionare per la sua tecnica, per la sua capacità di riprodurre un pezzo dopo averlo ascoltato magari anche una volta sola. A 13 anni suona già, entra e esce dai tanti gruppi che si creano tra i ragazzi, come tutti. Ci sono delle sere però nelle quali lui suona in qualche locale fino praticamente alla mattina, poi fa una veloce colazione, si cambia e va a scuola e ovviamente si addormenta in classe. I genitori cercano di ostacolare questa passione per la musica che ha colpito i due fratelli, ma Jimmy a 16 anni se ne va da casa, lascia Steve Ray orfano di quello che a tutti gli effetti è il suo punto di riferimento, il suo migliore amico oltre che suo fratello. I nostri genitori diventavano matti perché vedevano che con me avevano ormai perso ogni speranza e allora se la prendevano con Stevie Ray dicendogli: tu non andrai da nessuna parte. Non suonerai la tua musica in giro come un vagabondo, non farai altro che andare a scuola. Parliamo di un ragazzino che deve ancora dipendere dai genitori, così, e lui, che non ha più come alleato il fratello, deve terminare gli studi, trova lavoro in un ristorante. E lui stesso ricorda che, certo, questo non è il periodo migliore della sua vita. Uno dei miei compiti era quello di svuotare i secchi dell'immondizia e poi lavarli. Ma a volte mi ritrovavo coperto di grasso e sporco dalla testa ai piedi. Così decisi che non avrei più lavorato in quel modo e che avrei fatto solamente musica. E così nel 71, esasperato da questa vita che non gli piace, Steve Ray prende la sua grande decisione, il suo primo colpo d'ala. Abbandona la scuola e la famiglia, e la vita premia sempre in questo campo quelli che un piano B non ce l'hanno. Lui vuole solo suonare. Si sposta a Austin, che è un'altra città del Texas, una città più aperta e forse più libera artisticamente e culturalmente. E lì Steve Ray è sicuro di trovare la strada giusta per vivere la sua vita e per vivere di musica. Il falco. Il gabbiano. Steve Ray Vaughan si è appena lasciato alle spalle la città di Dallas, che è austera e chiusa, soffocante nella sua normalità, ed è andato a Austin, sempre in Texas, ma qui c'è un clima completamente diverso. Perché Austin è una città molto viva culturalmente, ci sono tanti locali nei quali degli aspiranti musicisti, degli aspiranti bluesmen, perché qua si parla di blues, cercano di sbarcare il lunario in attesa della grande occasione. E poi a Austin ti puoi vestire come ti pare, puoi suonare quello che vuoi, puoi esprimere le tue idee liberamente, insomma è considerato un po' la San Francisco dell'Est. E per Steve Ray è come essere in un parco di divertimenti. Lui può finalmente incontrare tutti i musicisti dei quali ha ascoltato solo i dischi. Così capita che una sera lui si trovi a faccia col grande Albert King, e questo è il racconto di suo fratello Jimmy. Albert King stava da un lato del palco e dall'altra parte c'era Stevie, e lui suonava un pezzo e Stevie lo riproduceva uguale, e Albert King non riusciva a credere che quel ragazzino fosse capace di suonare in quel modo. E suonare tutte le sere in locali dove si alternano grandi musicisti costituisce per lui una grande palestra. Lui osserva, impara, perfeziona la sua tecnica, diventa sempre più bravo e inizia a suonare in uno dei tanti gruppi che si esibiscono a Austin, spostandosi da un locale all'altro. I Cast of Thousand, poi i Nightcrawlers, poi i Cobras, gruppi che non diventano famosi, non riescono a incidere pezzi, però tutti ne parlano in zona. Steve Ray suona la chitarra, non sta in prima fila sul palco, è sempre uno dei componenti, diciamo, secondari, non è ancora un grande frontman, insomma non riesce ancora a comunicare la sua bravura. È un periodo un po' frustrante che dura 5 anni, fino al 76. Peraltro anche al fratello Jimmy le cose non vanno benissimo. Insomma, le strade del blues, quei tre accordi mitici, sembrano più insidiose, difficili da percorrere di quello che loro avevano immaginato, i due fratelli Vaughan, quando erano nella loro cameretta a Dallas. C'era una casa nell'East Side di Austin, una grande casa in cui ci viveva un sacco di gente, e c'era un sacco da bere, c'era cocaina, e tutti noi pensavamo che per suonare il blues avremmo dovuto viverlo al 100%, e per vivere il blues devi essere completamente fatto. E queste sono le parole di Chris Layton, che suona con Steve Ray Vaughan nella band. Peraltro sono anni nei quali Steve comincia a soffrire la presenza del fratello, che nel frattempo qualche gradino comincia a salirlo con i suoi Fabulous Thunderbirds, comincia a fare serate, a suonare, insomma è un po' più in alto di lui. Lui vuol fare meglio in una competizione inconscia e magari anche affettuosa, ma marcata con suo fratello, anche perché comincia provare il fastidio di entrare in un locale e sentirsi domandare come sta il fratello Jimmy. Nel 77, insomma, Stevie capisce che se vuol fare qualcosa deve essere lui a cambiare le cose, non deve aspettare che la fortuna gli piova addosso. Insomma, fonda la sua band, i Triple Threat Review. Alla batteria c'è appunto Chris Layton, al basso Tommy Shannon, e presto si cambia nome e nascono i Double Trouble. E così Steve Ray Vaughan comincia col suo gruppo a smuovere un po' le acque. Non si può parlare di successo, però arrivano le prime interviste radiofoniche, c'è un tentativo di incidere un album, però non si trova il discografico giusto, quello che vuole, che crede nella band. Però intanto si sta definendo bene lo stile di Steve Ray Vaughan, è un mix di rock and roll, di blues, nel quale lui si trova a suo agio, comincia a far emergere la sua tecnica con degli assoli che cominciano anche a essere più complicati, più articolati. È un virtuoso, quando si esibisce sono sempre di più quelli del pubblico che rimangono colpiti dalla sua bravura. E una sera, come in tutte le fiabe del rock and roll, in mezzo al pubblico c'è una persona speciale, si chiama Jerry Wexler. Ha iniziato la sua carriera come giornalista. Per capire di chi stiamo parlando, è l'uomo che ha inventato il termine rhythm and blues, è stato uno dei fondatori dell'Atlantic Records, ha lavorato con gente come Aretha Franklin, con i Led Zeppelin, con Ray Charles, con Bob Dylan. E quella sera, seduto tra il pubblico, c'è anche lui, mentre le dita di Steve Ray Vaughan scorrono sulle corde della sua chitarra, che tra l'altro sono delle corde molto grosse, lui le usa per ottenere un suono potente e deciso. Si narra che i suoi polpastrelli sanguinino per la fatica che lui fa nel domare queste corde particolari. Si dice che lui sia costretto a coprire le sue dita con una specie di colla, quelle che usano i Marines per cicatrizzare in fretta le ferite. Jerry Wexler venne da noi e ci disse: voi dovete andare a suonare al Montreux Music Festival. Noi non eravamo mai stati in Europa, neanche sapevamo dove fosse la Svizzera. E poi non avevamo mai inciso un disco e non eravamo sicuri che ci avrebbero accettati. Ma eravamo pronti e tutto ci sembrava una grande avventura. Montreux è un palcoscenico fantastico, io ci ho suonato, ve lo posso garantire. Chris Clayton, che stava ricordando come quella sera Jerry Wexler si è rimasto colpito dalla bravura di Steve Ray Vaughan, procura a lui e alla band un viaggio per la Svizzera, destinazione Montreux, lago di Ginevra. Dal 67 c'è il famoso Jazz Festival. In realtà a Montreux non si suona solo jazz, infatti ci ho suonato anch'io, si dà spazio a altri generi musicali. Insomma, Steve Ray Vaughan ha finalmente la grande occasione per salire sul palco e far vedere a tutti di cosa è capace. È un altro colpo d'ala, il colpo d'ala che lui stava aspettando fin da quando copiava con la sua chitarrina gli accordi del fratello maggiore, ma lui già voleva diventare il numero uno. Il falco. Stiamo raccontando la storia di Steve Ray Vaughan, ragazzo bianco del Texas che prende in mano la tradizione della musica nera e la racconta attraverso le corde della sua chitarra, uno dei tanti collegamenti che la comunità nera e quella bianca hanno avuto. Pensate a James Brown, per esempio, però in questo caso si parla di blues, di rock and roll. Lui ha fatto molti anni di gavetta suonando nei locali del Texas e adesso ha la sua grande occasione al Festival Jazz di Montreux dell'82. È un mondo nuovo per questi ragazzi che sono partiti dal Texas per arrivare lì in Svizzera. Il pubblico non reagisce bene, addirittura li fischia, e d'altra parte, insomma, è successo a molti di prendere fischi, perfino ai Blues Brothers. I fischi non venivano da tutto il pubblico, solo qualcuno delle prime file stava fischiando. Ma la sala era studiata per le sonorità del jazz acustico, e in un ambiente del genere, se qualcuno inizia a darti contro, hai come l'impressione di avere contro il mondo intero. Pensavano che suonassimo troppo forte, ma al diavolo, avevo pure delle lenzuola sugli amplificatori per contenerne la potenza, e stavo suonando a volume 2. Di solito ritengo sul 10. Però una cosa interessante a Montreux è che c'è sempre qualcuno che ti guarda. Quando ho suonato io c'era Quincy Jones che ci fece un complimento meraviglioso. Ci disse: ma siamo sicuri che siete italiani? Nel caso di Steve Ray Vaughan, tra il pubblico c'è il Duca Bianco, c'è David Bowie. Appena finito il concerto li prende da parte Steve e gli propone di incidere le chitarre di quello che diventerà uno degli album più importanti nella storia di Bowie, quantomeno dal punto di vista delle vendite, l'album Let's Dance. Gli studi di registrazione sono prenotati per 3 giorni. Steve arriva e in 2 ore e mezza ha inciso tutte le sue parti e tutto va bene, insomma ogni nota ha il suo significato. Non sapevo bene come inserirmi perché non avevo mai sentito il materiale e non avevo idea di come suonassero le canzoni. Sapevo che genere di blues piaceva a David, ma non avevo mai ascoltato molto i suoi lavori. Lui voleva uno che suonasse nel mio stile e ha scelto me. Mi ha detto: collega quella chitarra e suona. Io l'ho fatto e ho sparato il volume al massimo. E le acque cominciano a muoversi e anche bene. I Double Trouble firmano un contratto con la casa discografica di John Hammond, l'uomo che ha lanciato Bob Dylan, Springsteen, Leonard Cohen, e col supporto di Jackson Browne, che gli mette a disposizione il suo studio di Los Angeles, loro incidono il loro primo album, Texas Flood. Ci mettono 2 giorni a inciderlo. Il risultato è un mix esplosivo di blues e rock and roll, 12 pezzi che riporteranno in auge non solo loro ma proprio il blues sui palchi di tutto il mondo. Come in tutte le grandi storie, anche nella strada dei Double Trouble arriva il bivio, il momento di una scelta delicata. Sta per partire il tour di David Bowie, che ingaggia o almeno propone a Steve Ray Vaughan di seguirlo in tour, e sarebbero diversi mesi di tournée. Però è appena uscito Texas Flood e Steve decide di dedicarsi alla sua carriera, trova il coraggio di dire di no al Duca Bianco, rinunciando alla visibilità che quel tour gli avrebbe fornito. È una scelta rischiosa, però una scelta vincente, perché Vaughan va sulle prime pagine di tutti i giornali. Alla fine fa la fortuna dei Double Trouble. Il grande diniego ha dato vita alla tournée dei Double Trouble, pronti a entrare, a prendersi un posto nell'Olimpo del rock. Texas Flood è un grande successo, esce nel giugno dell'83, entra in classifica, vende 500.000 di copie. E qui non sono solo gli amanti della chitarra che apprezzano la musica di Steve Ray Vaughan, perché grazie a questa magia, alla magia del blues, le emozioni cominciano ad arrivare a molta gente. La band gira il mondo, suona dal vivo davanti a migliaia di persone, spesso è affiancata sul palco da grandi maestri del blues come Albert King, Johnny Copeland, Buddy Guy. Insomma, è finito ufficialmente il periodo della gavetta. Siamo nell'84, il 4 ottobre Steve Ray Vaughan festeggia il suo 30° compleanno realizzando uno dei sogni più grandi, perché i Double Trouble, accompagnati anche dal fratello Jimmy, salgono sul palco della Carnegie Hall, che è la più prestigiosa sala concerti di New York, che è il teatro di molti grandi spettacoli del passato. Steve è citato, è preso da un attacco d'ansia appena prima del concerto. Alla terza canzone tutto comincia però a andare per il verso giusto, con la sua giacca rossa sgargiante, col suo cappello da cowboy. Lui ha conquistato anche l'esigente platea della Carnegie di New York. Quando si comincia a pensare alla grande bisogna mantenere un equilibrio fisico, mentale soprattutto, per non precipitare verso il basso, e il rock and roll ha sempre, come dire, avuto una come confinante la strada della perdizione. Steve Ray Vaughan in questo momento è all'apice del successo. I Double Trouble sono richiesti in tutto il mondo, suonano senza sosta e sono gli anni, i momenti delle tournée nelle quali ci si sposta da un continente all'altro e si tira fuori una grande energia, però magari sei sul palco e non sai neanche in che stato, in che nazione ti trovi. Però dietro a quell'energia spesso si nascondono dei fantasmi. E nel caso di Steve Ray, i fantasmi sono l'alcol e la cocaina, suoi compagni di viaggio irrinunciabili. Negli ultimi mesi questo amore è diventato vero e proprio abuso. Così in tour in Giappone nell'85 cominciano i primi veri problemi. Ovviamente non ho iniziato a farne uso quando ero già in tournée. In realtà ero molto più giovane. Comunque, è vero, questo genere di vita, questo business, il fatto di essere sempre in giro, può portare una persona a credere di aver bisogno di energia artificiale o addirittura di un sedativo per non pensare. Questo processo poi è amplificato se la tua vita è nel mondo del rock and roll e della musica. In ogni caso, alla fine, ti accorgi che non è necessario. E insomma, Steve Ray Vaughan ha appena assaporato il successo e però adesso sta per toccare il fondo. Il 24 settembre all'Olimpiadi di Parigi e i Double Trouble danno vita a una performance molto discutibile. Sono sotto l'effetto di una droga. Si narra che Steve abbia suonato per 15 minuti una canzone senza accorgersi di essere out of tune, di essere nella tonalità sbagliata. E stiamo parlando di una persona che è arrivata a consumare 8 grammi di cocaina al giorno, come dire 30 bottiglie di whisky, e peraltro lui il whisky lo beve anche e addirittura mette la cocaina direttamente nel bicchiere di whisky, e questo ovviamente gli causa gravissimi danni allo stomaco. E due giorni dopo il concerto di Parigi, Double Trouble, sono in Germania. Steve collassa, è nel letto dell'hotel, non riesce più a muoversi, comincia a vomitare sangue. Parla solo per chiedere altro whisky. Il bassista Tommy Shannon chiama l'ambulanza. Insomma, Steve Ray Vaughan vede la morte da vicino, capisce di non essere invincibile e inizia per lui un tortuoso percorso di riabilitazione. Alla fine riesce a venirne fuori, ovviamente grazie alla musica. Alla fine degli anni 80 Steve comincia a vivere veramente la sua carriera a un secondo inizio. Sono anni di grande creatività, i Double Trouble pubblicano 2 album, sembrano pronti per riprendersi il mondo. Il 26 agosto del 90 si esibiscono a un festival nel Wisconsin assieme a Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray e Jimmy Vaughan. Steve è al massimo della forma, molti dicono che è il migliore della serata, che arriva a mettere in ombra tutti gli altri. E finito il concerto, lui è alle stelle, intanto ha vinto la sua guerra contro la cocaina, tutto sta andando nel verso giusto, è molto stanco, ha dato tutto se stesso, ha mal di gola, vuole riposare al più presto, così chiede di poter prendere l'elicottero con lo staff di Eric Clapton per tornare prima in un hotel a Chicago. La visibilità è scarsa e il destino lo sta aspettando dietro l'angolo. L'elicottero si schianta contro una collina e uccide Steve Ray Vaughan e gli altri passeggeri sul colpo. Si realizza peraltro una profezia, perché lui aveva fatto una copertina nella quale stava bruciando, e questo insomma non fu un buon presagio, un buon viatico. E al suo funerale alcuni artisti, tra cui Stevie Wonder, cantano una bellissima versione di Amazing Grace, e la cantano piangendo. È l'ultimo saluto a un artista del blues che con la sua Stratocaster ha cambiato il mondo della musica. Steve Ray Vaughan, un percorso verso l'alto che è stato interrotto da una tragica fatalità, una fatalità che ha risparmiato Eric Clapton e ha condannato lui. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano chiocciola radio24.it se conoscete una storia che volete che io racconti, e se no seguitemi, interagite sul sito di Radio 24, sui miei social, insomma se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti e Riccardo Carrà. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.